Ti guardo dalla strada ogni mattina, ti ascolto quando canti a prima sera, fra il vaso della mente e la cedrina, con la dolcezza della capinera. Ma quando è notte taci, ritorna la tristezza nell'anima che sogna la tua carezza. È tanto bello in due, donnina sola, percorrere il sentiero della vita, trovare nella casa addormentata due braccia che ti stringono. Confondere per sempre il mio respiro col palpito più puro del tuo cuore. Ti vorrei dire per questo una parola. Vogliamo essere in due.